come on, lontano, oh oh, e dico oh oh, oh oh, ti dico oh oh, mi sento strano da quanto sono lontano da te, oh ti parlo, oh oh, ti voglio oh oh, vicino però, oh oh, ti dico oh oh, mi sento strano da quanto sono lontano da te, oh ti parlo, oh oh, ti voglio vicino però, ti dico oh oh, mi sento strano da quanto sono lontano, oh oh, lontano, oh oh, lontano, oh oh. In questo brano sentirai solo batteria, niente musica né melodie, perché vale solo quello che voglio dire. Forse così mi ascolterai finché sarai mia. In questo brano scoprirai il mio sentimento del momento, niente musica, solo voce con parole ed un ritmo romantico per farti capire il mio obiettivo. Mi manchi, mi manchi, mi manchi oggi, ma noio, ma noio, ma noio troppo. Ti voglio, ti voglio, ti voglio adesso. Desidero, desidero, desidero un tuo bacio. Lo sai quando ho detto niente musica, melodie, solo batteria? Ho esagerato. E vai! Adesso sto viaggiando e mi sto rendendo conto come brutto sta lontano da te in questo giorno. Mi piace in auto, almeno se c'eri tu avrei molto di più che tutta una tribù. Mi porteresti sole, spiagge, pace e amore, questo vale molto di più che solo il mio di tu. Penso già come sarà bello il mio ritorno mentre sto guardando il cielo blu di Milano. Poi non sarà più il caso di dirmi levati intorno, perché ti stringerò forte nelle mie braccia e ti darò un bacio d'addio. Poi guarderò in alto con il mio salvagente aspettando un tuo schiaffo, magari un ti amo. Se un giorno ti conquisterò sarà il mio sforzo, sfogo, il mio merito, desidero interno esterno. Sarà il mio mondo perduto ritrovato, il mio territorio diventerai semplicemente il mio imperio. Oh oh, ti dico oh oh, mi sento strano da quanto sono lontano da te. Oh, ti parlo, oh oh, ti voglio vicino però, mi manchi, mi manchi, mi manchi oggi, ma noio, ma noio, ma noio troppo. Ti voglio, ti voglio, ti voglio adesso. Desidero, desidero, desidero un tuo bacio. Con te, senza te, con te, senza te, con te, con te, senza te, con te, senza te. Lontano, oh oh, lontano, oh oh, lontano, oh oh. Guardando la finestra della mia showboat hotel, sto godendo un po' la spiaggia e la sua nobest. Cielo blu, non ce la faccio più, il morale giù, partita da beach volley. Per non pensare più a te, ma in questo momento diventa molto difficile essere lontano da te. Sai, non vorrei mai esagerare, è tutto quello che mi pare, però c'è un grande vuoto in me, tu sai il mio volere. Ti chiedo sempre da dove sei entrata, non ti ho neanche visto uscire. Facciamo un contratto senza la tua firma, perché è da quando ti conosco che voglio credere all'amore. Poi da quando so il tuo nome, l'ho anche tatuato sul mio cuore. Forse questa canzone la troverai molto strana e scema, ma qualcuno la troverà anche romantica. Ma chi non rischia non brillerà mai nella sua vita. Con tutto questo ora, se qualcuno mi darà dello scemo, pazzo, buffo, io me ne frego, lo dedico a te, perché adesso ti amo. Desidero, desidero, desidero, desidero, desidero, desidero un tuo bacio.